fondo al viale, in quel caffè dove va gente che non sa cosa fare. Ho conosciuto lei in fondo al viale, in quel caffè. Per lei c'è solo lei nella mia mente, solo lei e nel mio sguardo, solo lei chi mi sorride sempre lei in fondo. Non so più andare avanti, in lei vedo ciò che non ho avuto mai e ho voglia di gridare per lei. Same.